Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Io sto a partì. Come sta a partì? Dove sta andando? Vado a Berlino, lui. Vado a vivere a Berlino. Ma perché? A fallere nomane. Ma di andare a fallere nomane a Berlino? Luigi, perché io qua non sto a fa un cazzo? Ma come non stai a fa un cazzo? Ma te mancano due esami e te laurea in ingegneria interstellar. Sì, e poi? Poi il lavoro non c'è, Luigi. Io devo partire, se non ora quando? Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. L'ironia dei The Pills nel primo video della loro annunciata serie sui giovani italiani che si trasferiscono all'estero apre oggi la nostra puntata. Nella scena che avete ascoltato, Mattia comunica all'amico Luigi di voler partire per una delle mete straniere più gettonate tra i giovani italiani, Berlino. Noi oggi ci spingiamo ben oltre, fino a un paese spesso menzionato unicamente per contesti di guerra. Già, perché i nostri migliori talenti, in questo caso al femminile, vanno fin sui fronti più caldi del mondo. Tra poco vi raccontiamo tutto. Vi ricordo intanto che prosegue anche oggi l'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Tra poco tutte le istruzioni per partecipare e partire per Strasburgo. La frase della settimana è copyright della scrittrice Silvia Avallone. Giusto andare all'estero, ma provo rabbia per chi è costretto a non tornare. Non ci sono certezze. Oggi il lavoro serve inventarselo. È fondamentale provare esperienza all'estero, cambiare, ma mi fa rabbia pensare a chi non può trovare un suo spazio qui. Così la Avallone. E alla fine lo dice anche l'Europa, se vogliamo sopravvivere dobbiamo vincere la guerra per il capitale umano qualificato. Pur combattendo l'attuale disoccupazione, l'Europa deve attirare i giusti talenti per essere più competitiva a livello globale, ha recentemente dichiarato la Commissione europea nel documento in cui ha annunciato un riesame della direttiva sulla carta blu dell'immigrazione. E il problema, diciamocelo senza giri di parole, è che l'Italia ancora non appare sufficientemente attrattiva a chi ha una visione internazionale nel sangue. Quando torni dagli Stati Uniti, al di là dell'investimento economico del master, ma un investimento professionale, un investimento di vita, ti trovi contro a un muro di gomma. Elena Vuolo, 35 anni, è una reports specialist per l'UNICEF a Erbil, in Iraq. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Nuove conferme sui trend migratori dall'Italia. Secondo il rapporto AISP, nel quinquennio 2008-2013 le partenze dal nord verso l'estero hanno ampiamente superato quelle dal sud del paese. Dal nord-ovest sono partite in media oltre 17.000 persone l'anno, 12.000 dal nord-est contro le 11.000 del sud e le 7.000 delle isole. Sorprende come nel quinquennio precedente le percentuali fossero sostanzialmente ribaltate. Secondo Salvatore Strozza, coordinatore del rapporto, dal sud Italia si va al nord e dal nord non si può che andare all'estero. Gran Bretagna, Francia e Spagna hanno aumentato la propria attrattività per i nostri connazionali. La Germania, con 82.000 immigrati italiani, primeggia, mentre gli Stati Uniti sono il primo paese di approdo extraeuropeo in crescita ai laureati con la valigia. Pure le millennials italiane guardano all'estero. Secondo una ricerca Doxa, il 40% delle 18-35 anni della penisola progetta di andare a studiare o lavorare oltre confine nei prossimi 3 anni. Giovani medici in fuga dall'Italia. Negli ultimi 5 anni su 7.000 laureati in medicina oltre 700 sono andati all'estero in cerca di lavoro ed è un numero sottostimato. Si calcola infatti che siano circa 1.000 i giovani dottori che ogni anno varcano il confine. Francia, Germania e Svezia i paesi più gettonati. A scattare la fotografia all'osservatorio giovani FNOMCEO. Mentre sono 30.000 i giovani che dopo la laurea in infermieristica non riescono ad inserirsi nel sistema sanitario nazionale o nel privato. Per loro l'alternativa alla disoccupazione o sottooccupazione è rappresentata da un lavoro all'estero. Sono molto richiesti in Inghilterra e Germania. A lanciare l'allarme la Federazione Nazionale Collegio Infermieri. Intanto il Portogallo, pesantemente colpito dalla crisi, sta cercando di avviare un controesodo dei suoi giovani. Secondo il giornale Diario de Noticias, il governo starebbe pensando a incentivi per riportare in patria parte dei 400.000 lusitani emigrati. Quasi un terzo dei giovani bulgari intende espatriare. Secondo i risultati di un sondaggio ministeriale, il 29% delle under 30 vorrebbe sistemarsi in un altro paese. Crescita economica e lavoro sono in cima ai pensieri dei giovani europei tra i 18 e i 40 anni, lo rivela la Erasmus Generation Survey condotta da Think Young e Barson Marsteller. Il 59% ritiene che debbano essere le priorità dell'Unione. Per quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro, i giovani intervistati ritengono importante investire nell'educazione e nella formazione professionale, ridurre la burocrazia e incentivare l'imprenditorialità giovanile. A proposito di lavoro, vale la pena ricordare come a febbraio sia risalita la disoccupazione giovanile al 42,6%, 868.000 giovani occupati, 40.000 in meno rispetto all'anno precedente. Crescono gli inattivi fino a 4,4 milioni di ragazzi. L'inattività giovanile sfiora il 75%. Il tasso di disoccupazione giovanile italiana è quasi doppio rispetto a quello dell'area euro. E l'Italia è ultima in Europa per spesa pubblica nell'istruzione, settore nel quale investe solo il 4,6% del PIL, lo sottolinea l'ANIEF, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Se in valori assoluti è la Danimarca a investire maggiori risorse nel sistema educativo, fanno meglio di noi Regno Unito, Paesi Bassi e Francia, tutti sopra quota 6%. Per risorse destinate nel 2014 all'istruzione, l'Italia si collocava tra i paesi europei a minore intensità di crescita. L'aumento è stato solo dello 0,6%. Due terzi dei paesi comunitari hanno accresciuto di oltre l'1% il budget, lo afferma il Sole 24 Ore Scuola. Infine, l'americana Harvard è l'università con la migliore reputazione al mondo, un podio condiviso con le britanniche Cambridge e Oxford, che scalzano dal secondo e terzo posto il MIT e la Stanford University, mentre non c'è traccia degli atenei italiani, lo afferma il Times Higher Education Magazine. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta davvero lontano, in aree di guerra. Anche la connessione telefonica, premettiamo, non sarà purtroppo delle migliori, ma ci teniamo a raccontarvi una bella storia di espatrio e farvi comprendere perché l'Italia fatica a diventare un paese in grado di valorizzare carriere dal profilo internazionale. Nome, Elena. Cognome, Buono. Età, 35. Città di origine, Nazionale Inferiore, provincia di Salerno. Studi, in Bocconi, negli Stati Uniti, master in legal health. Anno in cui hai lasciato l'Italia, 2002. Per andare dove? Perù, e poi dal Perù in altri posti fino ad arrivare in Iraq. Perché? Motivi di studio e poi di lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Sono in partnership in UNICEF Iraq. Dove? Erbil, Kurdistan, Iraq. Tornerai? No. Samira Said Erbil, per introdurre la storia di Elena Vuolo. Ho provato a tornare in Italia dopo il master negli Stati Uniti, ma quando l'ho fatto mi sono scontrata con un sistema di lavoro obsoleto e per nulla meritocratico. Il problema è che l'Italia è ancora in periferia quando si tratta di sviluppo sostenibile, c'è scritto. Elena, vista da fuori, l'Italia ti appare un paese periferico sul grande scacchiere della globalizzazione? Lo confermo, nonostante il fatto che l'Italia in realtà sia nel mezzo degli eventi e dei trend più importanti di globalizzazione. In fondo non siamo lontani dalla Libia e non siamo lontani dalle persone che arrivano come boat people e atterrano a Lampedusa, però purtroppo sì, siamo ancora a livello periferico, tanto a livello di cooperazione internazionale come nello scacchiere della politica internazionale. Rivolgiamo il nastro della tua storia, partiamo dall'inizio. Studi alla Bocconi management di organizzazioni internazionali e ci arrivi dalla provincia di Salerno, di dove sei originaria, grazie a una borsa di studio. Cosa ti ha mosso verso un campo di studi così particolare? Era il 99, io avevo fatto il liceo grazie ad una borsa delle Nazioni Unite, avevo finito il liceo in Inghilterra e personalmente volevo continuare verso un percorso internazionale. La Bocconi era la prima università d'Italia ad offrire questo tipo di corso, di laurea. Già durante il corso di studi le prime esperienze sul campo e subito ti balza agli occhi lo scarto che riscontri tra teoria e pratica, davvero enorme, soprattutto nel parallelo Italia-Estero. Quale pesante gap scontavano e scontano i tuoi coetanei italiani rispetto agli studenti di altri paesi? Non voglio dire la qualità dell'educazione universitaria, dell'istruzione universitaria in Italia, ma in generale noi sostanzialmente ci lavoriamo più tardi degli altri. Le università all'estero comunque hanno un network molto più forte di relazioni, partnership con il settore privato, con le organizzazioni internazionali. E poi noi ci focalizziamo molto sulla teoria, con meno chance e opportunità di cominciare già a lavorare durante il periodo di studi. Anche se io devo ammettere che in Bocconi sono stata molto più fortunata rispetto alla media del nostro collega di altre università. Opti per una tesi laurea sperimentale e ti chiedo, quale voto dai all'università italiana nel complesso e a posteriori, se dovessi tirare un bilancio dei tuoi anni di formazione? In una scala da 1 a 10, al sistema universitario italiano in genere, gli darei un 6. Perché comunque anche quando uno studente cerca di portare delle idee innovative, anche sulla stessa tesi, il momento della tesi, in realtà viene sempre considerato come una raccolta di informazioni e dati che tu fai in biblioteca e mai come un'opportunità effettivamente per dare un entry point per trovare un posto di lavoro. Quindi il momento della tesi stessa è forse, come posso dire, il momento più chiaro in cui si capiscono le limitazioni del sistema universitario italiano. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Goodbye, non ancora. giorno dopo la laurea sono in Spagna, dove a 24 anni divento project manager per il Dipartimento di Cooperazione Internazionale del Politecnico di Madrid, ricordi? Ma quello che ti chiedo io è un'altra cosa. In Italia avevi proprio rinunciato a lavorare oppure qualche tentativo l'hai fatto prima di partire? Io in realtà non ho mai fatto un tentativo di lavorare in Italia nel periodo relativo alla laurea, perché in realtà mi sono sospeso dal Politecnico di Madrid di andare a lavorare mentre stavo partecipando con loro la tesi di laurea. La questione, appunto, come dicevo prima, il momento della tesi di laurea, molto spesso la tesi di laurea viene vista come l'ultimo kick-off che devi dare per laurearti e poi cercare lavoro. Questo secondo me è sbagliato. In realtà poi ho cercato di trovare lavoro dopo il master, proprio dopo il master in Italia. E tra poco ci arriviamo, Quando lavori nella cooperazione vedi come le tue azioni possono cambiare e migliorare la vita delle persone che combattono per i loro diritti essenziali, vuoi di più da te stessa per dare di più, rifletti oggi. Così lasci la Spagna dopo un anno e con una borsa di studio voli negli Stati Uniti. Allora, in due parole, per fare cosa? Grazie a Rotary avevo ricevuto una borsa di studio, ho fatto il mio master in Global Health and International Affairs a Washington DC. Qual è il modello americano con cui alla fine ti confronti e che in qualche modo suggerisci anche un po' di copiare, se vogliamo? Negli Stati Uniti, quando fai il master, praticamente i tuoi colleghi americani stanno già lavorando nel Dipartimento di Stato, USAID, che poi è la cooperazione americana. Non vieni considerato come un semplice studente di master, vieni considerato già come un professional che sta semplicemente facendo un percorso aggiuntivo di formazione professionale, ma che comunque non è considerato come un semplice studente di master. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Elena Vuolo, 35enne reports specialist per l'UNICEF Erbil in Iraq. Elena vi approda dopo una carriera internazionale di studio e lavoro che l'ha portata ai quattro angoli del pianeta, dagli Stati Uniti all'Afghanistan, dall'Egitto all'Iraq. Nel mezzo, un tentativo di rientro in Italia rivelatosi amaro e improduttivo, sia per salario che mansioni che prospettive. A noi non resta che una semplice domanda: perché il settore della cooperazione è ancora così poco sviluppato in Italia, carente nelle opportunità che offre ai giovani? Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Il mio rientro in Italia è stato frustrante. Lavoro per poco più di 1200 euro al mese in università, preparando moduli per master che promettono di insegnare cosa sia la cooperazione internazionale senza neppure offrire opportunità di internship agli studenti. A 27 anni, dopo aver vissuto negli Stati Uniti, sentivo di non appartenere al mio paese, ricordi con grande amarezza. Dunque è un controesodo difficile quello che hai affrontato qualche anno fa. Tra tutti gli elementi che hai menzionato poco fa, stipendio, contratto, lavoro e prospettive, quale ti ha fatto più allontanare dall'Italia? La mancanza di meritocrazia. Lo so che non sto dicendo niente di nuovo probabilmente a chi sta ascoltando questa trasmissione, però è stata proprio la mancanza di meritocrazia in primo luogo. In secondo luogo il fatto che quando torni dagli Stati Uniti, al di là di un investimento economico del master, ma un investimento professionale, un investimento di vita, ti trovi contro un muro di gomma. Muro di gomma è una definizione interessante, perché è quello che succede a tanti giovani che anche in altre professioni provano a tornare. Così riparti, a 28 anni sei al Cairo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi in Afghanistan, quindi ritorno a Washington con la Banca di Sviluppo Interamericana, poi ancora di nuovo in Afghanistan con OMS prima e ONU poi, fino all'Iraq dove lavori con l'UNICEF. Di cosa ti occupi ora? Lavoro nella sezione di partnership, ci occupiamo praticamente di partnership building, relazioni con i donor attraverso reporting. Ed è qui con noi Stefania Paradisi, responsabile dell'ufficio master presso l'ISPI di Milano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora Stefania, purtroppo la connessione con Elena telefonica purtroppo è veramente scadente e ci sarebbe piaciuto ascoltare ancora di più da lei, ma ci rendiamo conto che è difficile anche riuscire a capire quello che dice, però è una bella storia e quello che ti chiedo è: cosa ci insegna la storia di Elena Vuolo? Lavorare nel settore della cooperazione internazionale in Italia è una mission impossible per giovani ambiziosi come lei che vogliono fare la differenza. Intanto ci insegna che la determinazione è fondamentale, che ti porta a conseguire gli obiettivi, e faccio i complimenti a Elena ovviamente. Io non direi che lavorare in Italia nella cooperazione internazionale sia una mission impossible. Ci sono però una serie di ostacoli anche culturali, se vogliamo, non soltanto di preparazione universitaria. Lei parlava anche di muro di gomma, cioè cos'è questo muro di gomma di meritocrazia che alla fine l'ha fatta un po' scappare di nuovo? E questo è un problema molto comune ai giovani, purtroppo, e non soltanto nel campo della cooperazione. Io parlo per l'esperienza che ho. In realtà non si tratta tanto di un muro di gomma, si tratta, e concordo più su questo con Elena, il fatto che le nostre università non preparano un approccio pratico, e soprattutto quando si parla della cooperazione internazionale ci sono tutta una serie di requisiti che magari non sono necessari per altre carriere, che andrebbero invece proprio acquisiti durante gli anni dell'università. E quindi il problema nostro, credo, è quello che si considera il lavoro nella cooperazione internazionale, a meno che uno non riesca nelle Nazioni Unite, allora riconosciuto universalmente come un successo straordinario, ma lavorare nella cooperazione internazionale è un po' considerato come il volontariato, no? Quindi non tanto come una questo professione. Problema anche culturale forse a superare. Sì. Stupisce nell'esperienza e studi di Elena il sorprendente scollamento tra teoria e pratica che lei ha sperimentato in Italia, a differenza, lo ha detto, degli Stati Uniti. È un problema reale, soprattutto è così diffuso? Sì, è un problema reale ed è diffuso e i nostri ragazzi e ragazze non sono preparati all'ingresso poi nel mondo del lavoro. In teoria siamo straordinari come tutti ci riconoscono, quando si tratta di lavorare le cose cambiano. In realtà vorrei anche dire che se si fa un paragone con i giovani degli altri paesi europei o insomma del mondo anglosassone, questi acquisiscono anche al di fuori dell'ambito dello studio una serie di skills poi fondamentali per lavorare in questo ambito. Mi riferisco in particolare alla capacità di lavorare in un ambiente multiculturale, a sapersela cavare da sola se vogliamo, quindi ragazzi che escono anche dal loro ambiente nazionale molto prima dei nostri, e quindi il saper lavorare in team, parlare le lingue come strumento di lavoro e non tanto per insomma così per scambiare qualche convenevole, ecco, sono aspetti interessanti. Che l'esperienza di Elena ci racconta di paesi lontani, di fronti caldi, spesso anche di zone di guerra. E tra le riflessioni che ci ha inviato preparando questa puntata destinata ai giovani che vogliono intraprendere questo cammino c'è quello di sapersi adattare, lo ha riassunto in due parole. Allora, quanto la capacità di adattamento a situazioni disagiate è la premessa necessaria per affrontare una professione come questa? Non è, insomma, alla portata forse di tutti. Assolutamente, è per questo che io mi richiamo non tanto alla preparazione in aula quanto all'esperienza di vita dei ragazzi, perché io credo che sia fondamentale che testino una serie di capacità, poi quella di adattamento è una di queste, negli anni ancora in cui studiano, cioè fare esperienze che siano esperienze di volontariato, esperienze sul campo, fanno sì che i ragazzi si rendano conto se questo tipo di lavoro fa per loro o meno. La capacità di sapersi adattare può riguardare i casi estremi dell'Iraq, evidentemente lì ci si arriva poi dopo un po' di anni di esperienza, ma in generale adattarsi significa anche vivere fuori dall'Italia, quindi questa cesura con la famiglia, con gli amici, e anche naturalmente andare a lavorare in posti in cui magari non c'è luce, non c'è acqua, molto banalmente, non sono le situazioni estreme, e queste cose vanno testate prima di intraprendere un percorso specifico. E per questo serve la pratica. Esattamente. Fare pratica, questo in Italia purtroppo non lo stiamo imparando tardi e troppo tardi. Ci sono altri consigli essenziali, oltre a sapersi adattare, questo l'abbiamo capito, altri consigli essenziali? Altri consigli che io darei sulla base anche della mia esperienza personale. Forse per trovare lavoro soprattutto. Esatto. Le cose sono naturalmente molto cambiate da quando io stessa ho lavorato in questo ambito, adesso non ci si improvvisa più, quindi la questione della preparazione è fondamentale, la formazione per diventare professionisti e mettersi subito nel mondo del lavoro. Però io direi anche per i giovani che sono ancora alle prime armi all'università e che non sanno che cos'è la cooperazione internazionale, perché l'immagine che arriva in genere, l'immagine che si vede ai telegiornali, non so, le tende dell'Unicef, non è solo quello evidentemente, ci sono molte possibilità. Io stesso ho incominciato con l'osservazione elettorale, non sapevo allora che cosa fosse. Quindi il consiglio è: esiste internet, beati voi, non c'era più ai miei tempi, informatevi, andate sui siti delle grandi organizzazioni, sui siti dell'ONG, guardate le offerte di lavoro, cercate di capire quali sono i requisiti che vengono richiesti e su questo tarate la vostra preparazione, fate esperienze sul campo di volontariato, testatevi. Grazie a Stefania Paradisi. E domanda di rito per Elena Vuolo: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Perché nella mia carriera ho trovato tante persone che erano completamente impreparate, che provenivano dall'Italia e che aspiravano a lavorare con le Nazioni Unite senza appunto quello che Stefania sta dicendo, senza un minimo di esperienza nel field e un gran bagaglio di umiltà che purtroppo manca. E prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 16 maggio per ben 10 settimane. Quest'anno raddoppiamo le opportunità, che riguarderanno un totale di 8 ascoltatori tra i 18 e i 40 anni. Per partecipare è necessario inviare da adesso fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema di questa settimana, perché oggi torniamo a proporvi un tema, è: indicateci una proposta in 140 caratteri per l'organizzazione di un evento a Expo 2015 che valorizzi i migliori giovani talenti italiani. Indicateci questa proposta e inviateci le vostre proposte in 140 caratteri con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it, pubblicandola anche su Twitter con l'hashtag Giovani Talenti UE. Attenzione, inviate le vostre proposte solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave Europa 75. Ripeto, parola chiave Europa 75. I primi quattro classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo e i classificati dal quinto all'ottavo posto quattro biglietti d'ingresso al padiglione europeo di Expo 2015 a Milano. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'ufficio di informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi torniamo a indagare il vasto mondo delle radio italiane all'estero. Radio di nuova generazione pensate e fondate da connazionali della nuova immigrazione. In Irlanda ne abbiamo scovata una che trasmette non solo online ma anche in FM. Ne parliamo con Maurizio Pittau, produttore e presentatore di Radio Dublino. Radio Dublino nasce nel 2013 per caso. Sentivo una radio a Dublino in cui trasmettevano programmi di varie nazionalità, tra cui brasiliani e polacchi, una comunità molto presente in Irlanda, e ho proposto un programma in italiano, ho fatto un corso per radio speaker, produttori eccetera e poi nel settembre 2013 è stato approvato il progetto ed è nata Radio Dublino. Com'è possibile ascoltarvi su internet, in FM? Sì, Radio Dublino a differenza di altre radio italiane all'estero è una radio in FM, abbiamo il 90.3 a Dublino. Che comunità è quella degli italiani in Irlanda, a Dublino? Sì, il nostro target, il nostro audience è fondamentalmente i giovani. La maggior parte degli immigrati in Irlanda sono giovani, 20, 30 anni, massimo 40 anni, arrivati in Irlanda 15-30 anni fa massimo, durante il periodo della tigre celtica. Quindi molti operano nell'IT, nel settore delle multinazionali, eccetera. E c'è una piccola comunità di italiani di prima generazione, arrivati negli anni 50. Nonostante la crisi, non si è interrotto il flusso di italiani che hanno scelto l'Irlanda come paese dove emigrare, dove cercare opportunità di lavoro? L'arrivo di italiani continua, ed è continuato anche durante la recessione, perché questa molto forte recessione, ma in Italia forse è stato anche peggio. Il flusso che non si è mai bloccato ultimamente da circa un anno, anno e mezzo, è cresciuto in modo esponenziale. Sempre l'IT il settore dove ci sono maggiori opportunità? L'IT è il settore prevalente, ci sono molte opportunità nel customer service, nel sales. Per motivi fiscali l'Irlanda è l'hub delle grosse multinazionali americane che hanno sede appunto in Irlanda per coprire il mercato europeo. Voi raccontate questa nuova immigrazione e se sì quali storie raccogliete? Beh, noi ogni settimana abbiamo almeno uno o due ospiti italiani che vivono in Irlanda e cerchiamo di capire un po' chi sono gli italiani che vivono qua e le motivazioni sono veramente le più disparate e le più diverse e c'è un'evoluzione che ho notato ultimamente con l'aumento della crisi in Italia che prima venivano persone interessate all'Irlanda, ora arrivano persone perché non hanno più possibilità di fare nessuna attività in Italia e quindi la forma di fuga. Per maggiori informazioni potete cliccare su radiodublino.com. Un motivo per restare o tornare. Nei primi due mesi dell'anno i contratti a tempo indeterminato attivati nel complesso sono stati oltre 303.000 con un aumento di 79.000 unità sullo stesso periodo 2014. I dati sono del Ministero del Lavoro e sono legati agli incentivi previsti dalla legge di stabilità. L'unico vero dubbio, secondo gli esperti, resta legato alla genesi di questi contratti. Sono nuove assunzioni reali o semplici passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato? E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog dei giovani talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Giovani Talenti UE, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di aprile, l'Italia è ancora il paese dei raccomandati? Quanti raccomandati conoscete che non hanno mai inviato uno straccio di curriculum per guadagnarsi il posto? È ancora utile essere figlio di in questo paese? E per ogni raccomandato incapace, quanti giovani bravi e senza santi in paradiso se ne vanno? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it.